Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts. Jazz on megahertz. Sell peanuts, sell peanuts. Sell peanuts, sell peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Barone e Salpinaz. Oggi rimaniamo in Europa. Alcuni musicisti sicuramente che non sono di primo piano, come peraltro spesso accade a Salpinaz, ma che comunque rappresentano quello che è una maturità ormai che esprime l'Europa. Una maturità ma anche una scena variegata con voci decisamente diverse, spesso diverse molto l'una dall'altra. Il primo gruppo, il meno conosciuto, è un quartetto francese, si chiamano Big Four, e sono guidati da Julien Soro, un sassofonista allievo di François Jeannot. E diciamo che è un gruppo scaturito poi dalle righe dell'Orchestra Nazionale Francese di Jazz, che è stata per molto tempo, oltre che fondata, dallo stesso François Jeannot, e che appunto dà prova, come se poi ce ne fosse bisogno, di dare poi spazio anche da un punto di vista formativo a quelli che sono i talenti che possono emergere. E questo quartetto è nato nel 2009 e alla terza prova in questo caso, e vede anche un ospite d'eccezione, si tratta di Tony Malaby. E è una musica che può benissimo inserirsi in quello che è appunto la tendenza più newyorkese del momento, che appunto direi che Tony Malaby si può trovare benissimo proprio oggi in questo tipo di vena espressiva. Naturalmente non stiamo parlando di capolavori, comunque di un prodotto interessante. Sono un insieme, quindi sono musicisti capaci, la loro, come dire, la loro condizione di insieme è sicuramente positivo. Ascoltiamo un paio di composizioni da questo album uscito recentemente per l'etichetta Self, quindi è un discorso decisamente autoprodotto, che si intitola Big Four with Tony Malaby, Mind the Gap. Thank you. Thank you. la scelta timbrica di questo gruppo interessante, Julien Soreau, che guida questo quartetto chiamato Big Four, con l'ospite anche di Tony Malaby come ospite aggiunto, è interessante la scelta timbrica perché oltre al suo sassofono e vari tipi di sassofono, in questo caso contralto comunque, vibrafono, quindi che è Stefan Caracci, e poi alla batteria Raphael Körner e Fabien de Bellefontaine al sousaphone. Quindi al posto del basso viene usato il sousaphone, che dà un senso più bandistico, più orchestrale alla formazione, ma ne sottolinea anche l'aspetto ritmico in modo particolare. E, ecco, questo era Big Four with Tony Malaby, Mind the Gap. Un disco interessante soprattutto perché mette in evidenza le qualità di questo quartetto. Qui passiamo invece, questi sono giovani, ma invece d'ora in poi andiamo su classici. Una pianista finlandese che ormai è molti anni che è sulla scena, anche in un certo qual modo si può dire in primo piano. Si tratta di Iiro Aarla, una finlandese, una pianista finlandese, che ha collaborato, è stato un allieva e ha collaborato molto con Edgar Vesala, ma anche con tutta quella che è stata la generazione dei musicisti nordici dagli anni 70 e poi successivamente anche 80. E quindi parte da allora la sua esperienza, ha collaborato con Thomas Stanko, con Markus Stockhausen, un po' quindi con un po' tutta la scena dell'avanguardia europea più sofisticata, legata spesso anche come incisione all'etichetta ECM. E in questo caso guida un sestetto, una formazione nuova, e registra per un'etichetta diversa. Questo si sente peraltro, anche perché l'atmosfera non è quella rarefatta, eccessivamente rarefatta, di Manfred Eicher, ma è più concreta, più difforme, più ricca di colorature diverse. Risente sicuramente di quella che è la musica, una certa esperienza, diciamo, della costruzione orchestrale della musica di Ravel, e quindi molto collocato in Europa, poi anche certamente in spazi larghi ai quali ci ha abituato la musica scandinava. Però entra anche in concretezze più legate al linguaggio free in altre situazioni. Il brano che ascoltiamo, preso da questo disco che si intitola Colibri, sestetto, è un brano più condizionato da una atmosfera mistica, si intitola Procession, e è decisamente una buona struttura evocativa. Risente anche forse di una qualche influenza dal bolero, ma però ha una sua autonomia, una sua vitalità e originalità creativa. Thank you. Questo era il sestetto di Iiro Haarla, pianista finlandese ormai di valore, come dire, riconosciuto, è una pianista storicamente già collocata e che continua la sua attività. Un altro gruppo storico che è da molti, molti anni che continua la sua attività è i Compani. Un gruppo particolare guidato da Bovan de Graaf, un sassofonista olandese, un gruppo olandese che nasce alla metà degli anni Ottanta con un progetto che era quello di ripercorrere e reinterpretare le musiche di Nino Rota. Era un progetto curioso, peraltro. Su questa intenzione, diciamo, della rilettura di Nino Rota, ha prodotto diversi lavori, diversi dischi, poi si è anche cimentata in altre cose, ma sempre su riletture di pagine diverse da quelle che possono essere il repertorio jazzistico sicuramente. E sono già una quindicina i dischi che sono usciti dalla metà degli anni Ottanta fino adesso, quindi sono già quasi una trentina d'anni che questo gruppo è in attività. Ed è in questo caso l'ultimo lavoro, è dedicato a Verdi, alle musiche di Verdi. Non è la prima volta, era già uscito nel 2000 un altro lavoro su Giuseppe Verdi, e quindi riprende queste tematiche ed è, come dire, una rilettura curiosa, interessante. Intanto ne emerge una costante che fa parte della tradizione dei musicisti olandesi, che è una profonda ironia che però sconfina, o quantomeno gioca anche su una linea di confine piuttosto flebile, anche con una serietà interpretativa che va presa da un punto di vista musicale con molta attenzione. E, come dire, è un passo facile e piuttosto, come dire, potrebbe benissimo capitare di scivolare nel kitsch e negli aspetti più cialtroni di questo percorso. Direi che i Compani hanno dato prova e continuano a darla di percorrere questa strada sempre con una certa sicurezza e con un risultato artistico sempre di alto livello. Le formazioni sono sempre anche un po' le più diverse, ma sicuramente è presente sono presenti gli archi, quindi violino, violoncello e contrabbasso sono frequenti, naturalmente anche le voci. E adesso ascoltiamo diversi brani, in questo caso è un omaggio, il primo brano che ascoltiamo è un omaggio a Die Sire. Poi si passa alla Ida, sono diversi delle arie che vengono riprese, rielaborate, rivoltate anche in modo spregiudicato da Bovan de Graaf e dalla sua formazione. Ascoltiamo queste reinterpretazioni. Thank you. Kusiancy, Kusiancy piano, Krzysztof Okagi. Applausi per questa registrazione dal vivo dell'ultimo lavoro, dell'ultimo disco uscito per il gruppo I Compani, una formazione diretta da Bo van de Graaf, una storica formazione che ha già una trentina d'anni alle spalle, e nella tradizione proprio di Breuker e di quello che è la musica olandese. Una bella rilettura di alcune delle pagine più importanti di Verdi e soprattutto dell'Aida. Questo era anche l'ultimo brano per oggi, l'ultimo ascolto. Vi ricordo che l'intera trasmissione, anche le indicazioni discografiche, le potete trovare nel nostro sito radiocittafugico.it alla sezione playlist. Thank you.